Che se io fossi Bruto, e Bruto Antonio, qui ora ci sarebbe un Antonio che squasserebbe i vostri spiriti. Mi stupisco di parlare per incantarvi, mentre vorrei liberarvi per confondervi. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangeva. Letture di Radio 24. La città di Malmö, nella punta meridionale della Svezia, rappresenta da anni un modello di accoglienza per gli stranieri che vi giungono da ogni parte del mondo. Ma la presenza sempre più numerosa di musulmani sta rendendo la vita difficile alla piccola comunità ebraica che vi abita. E anche a Stoccolma la situazione sta diventando pericolosa. Stoccolma. La columnist delle Jerusalem Post, Caroline Glick, in un suo recente articolo ha scritto che Malmö è uno dei posti più pericolosi in Europa per gli ebrei. Affermazione precisa che registra il crescente disagio delle circa 700 persone che compongono la piccola comunità ebraica della terza città svedese, al punto che alcuni hanno deciso di traslocare. Eppure la Svezia è stata nel Novecento uno dei luoghi più accoglienti per gli ebrei, che sono circa 20.000 in tutto il paese. Molti di essi si rifugiarono nello stato scandinavo in fuga dal Terzo Reich e durante la guerra la quasi totalità degli ebrei danesi trovarono un posto sicuro in Svezia, insieme con migliaia di correligionari provenienti da altri paesi. In seguito arrivarono altri gruppi dall'Europa dell'Est. Ora però qualcosa si è incrinato. E non soltanto in seguito alla querella dell'estate scorsa nata da un articolo pubblicato dal quotidiano svedese Aftonbladet, in cui si insinuava il sospetto che, per torbidi fini, gli israeliani espiantassero organi ai palestinesi morti sotto la loro custodia. La situazione più preoccupante è quella di Malmö, città in cui un terzo dei circa 270.000 abitanti è di origine straniera e un quinto è musulmano, e in cui sembra essere andato in tilt il modello scandinavo di convivenza. Nel 2009 la polizia ha registrato 79 atti riconducibili all'antisemitismo, il doppio rispetto all'anno precedente. Si sono verificate profanazioni di cimiteri, una cappella sinagoga è stata bersaglio di bombe Molotov, sono apparse svastiche scritte inneggianti a Hitler e alcuni raccontano che non sia più una rarità essere apostrofati con un «Yavla Jude», maledetto ebreo. Ma più che con gli estremisti islamici e con i neonazisti, che peraltro, pur condividendo l'antisemitismo con i fan del jihad, manifestano odio anche nei confronti dei musulmani, i cittadini di fede ebraica di Malmö sono indignati con la sinistra anti-israeliana e con il sindaco socialdemocratico Ilmar Reepalu, che amministra la città dal 1994. La situazione è peggiorata a partire dall'operazione Piombo Fuso, lanciata da Israele tra 2008 e 2009, contro le roccaforti di Hamas nella striscia di Gaza. Allora, il sindaco Reepalu sostenne che gli ebrei di Malmö, per non essere vittima dell'evidente diffondersi del risentimento nei loro confronti a causa delle azioni militari di Gerusalemme, avrebbero dovuto condannare la politica israeliana. In altre parole, diede a intendere che con la sua mancata presa di distanze da Israele, la comunità ebraica di Malmö se l'era un po' andata a cercare. Poi, nel marzo scorso, il comune ha deciso, per ragioni di ordine pubblico, di far giocare a porte chiuse un incontro Svezia-Israele di Coppa Davis. La Federazione Internazionale Tennis ha poi squalificato il campo di Malmö per 5 anni. E da ultimo Reepalu ha approfittato della giornata della memoria per dichiarare che nella sua città non sono accettabili né l'antisemitismo né il sionismo, in quanto si tratta di due estremismi. L'equiparazione ha fatto infuriare la comunità ebraica. L'86enne Judith Popinski, superstite di Auschwitz che vive a Malmö dal 45, ha raccontato al Sunday Telegraph l'accoglienza sempre più fredda che riceve nelle scuole quando racconta l'esperienza nei lager nazisti. E su The Local, sito di news in lingua inglese, Friedrich Sieradzki, della comunità ebraica della città, racconta che molte giovani famiglie di ebrei stanno decidendo di lasciare la città. Fra loro c'è il 32enne Marcus Eilenberg, la cui storia è stata raccontata dal quotidiano Skanska Dagbladet. Gli antenati materni di Eilenberg vivono a Malmö dall'Ottocento, ma ora Marcus non vede un futuro tranquillo, né lì né a Stoccolma. Ha pensato di trasferirsi nella capitale, ma poi ha rinunciato, perché pensa che fra 5 anni anche a Stoccolma la situazione sarà cattiva come a Malmo. Andrai in Israele non senza rammarico. Immaginare che la mia famiglia non possa sentirsi sicura nella fantastica Svezia è davvero terribile. Si stima che ben 30 famiglie di ebrei di Malmo stiano facendo o abbiano già fatto la stessa scelta. Avete ascoltato la lettura dell'articolo Fuga dalla Svezia, dal Foglio, del 25 febbraio. Durante il terribile sisma che ha colpito il Cile nei giorni scorsi, il gesto eroico di una bambina ha contribuito a salvare centinaia di vite umane. Martina Maturana ha 12 anni, vive sull'isola di Robinson Crusoe, al largo della costa del Cile, e non dorme. Ha appena sentito tremare il materasso sotto la schiena. Una vibrazione l'ha svegliata, ma neanche troppo. Potrebbe tranquillamente girarsi dall'altra parte e ricominciare a dormire, come stanno facendo tutti gli altri 600 abitanti dell'isola di Juan Fernandez. Martina invece scende dal letto. Vuole capire. Scuote il padre poliziotto, rintanato sotto le coperte. «Cosa è stato, papà?» «Cosa è stato cosa?» «Niente, torna a letto». Lei ci va, ma non riesce a prendere sonno. Allora, in punta di piedi, raggiunge la finestra, guarda in basso e vede. Vede ondeggiare le barche nella baia, al chiaro di luna. E capisce. Lo tsunami. Si precipita in piazza e suona il gong. Adesso sono tutti svegli e corrono all'impazzata verso la cima dell'altura che domina l'isola. Appena in tempo, nel volgere di qualche minuto, un'onda gigantesca sommerge la baia, inonda la piazza, distrugge il municipio e le case circostanti. La bambina che non voleva dormire ha salvato la vita di tutti coloro che non volevano svegliarsi. Ricordiamoci di lei, ogni volta che ci rassegniamo alle spiegazioni rassicuranti e rimuoviamo la realtà per non essere costretti ad affrontarla. Martina incarna lo spirito di ogni essere umano, com'era al momento della nascita e come dovrebbe essere sempre e invece non è quasi mai. Presente a se stesso, capace di meravigliarsi. In una parola, vivo. Avete ascoltato la lettura dell'editoriale di Massimo Gramellini, Martina che non voleva dormire, dalla Stampa del 2 marzo. In un liceo di Brescia, tutti gli studenti hanno un rendimento scarso perché, per loro stessa ammissione, non studiano. Ma fino a che punto sono da biasimare? Certe volte, piccoli fatti sono più significativi di ampie statistiche e profondi commenti. È il caso del liceo artistico Maffeo Olivieri di Brescia, dove la dirigente scolastica, visti i voti disastrosi del primo quadrimestre, ha inviato una lettera agli insegnanti chiedendo loro di spiegare perché le cose vanno così male. Gli insegnanti hanno girato la domanda agli allievi e la risposta è stata: «Perché non studiamo?». Si potrebbe chiudere così la questione se l'affermazione non suscitasse un'ulteriore domanda: «Perché non studiano?». Non è tanto questione di insegnanti, di materie, di libri di testo o di compagni di classe, perché la crisi non risparmia nessuno. E non basta neppure aumentare le dosi di studio e di impegno. I troppi compiti diventano un problema dei genitori. Il nocciolo sta nella mancanza di motivazione, nel quesito «perché studiare?». Un tempo si ricorreva a percosse e castighi per indurre i riottosi a chinare la schiena sui libri. Ma ora abbiamo acquisito altri valori e la costrizione è diventata inammissibile. Più tardi si è ricorsi alle bocciature, ma è un'arma spuntata in un periodo nel quale il posto fisso, la promozione sociale, la carriera e il successo sono residui del secolo scorso. I ragazzi non lo sanno ma lo sentono con le finissime antenne con cui ciascuno percepisce il suo tempo. Per giunta, gli insegnanti hanno perso non solo il prestigio che nutrivano in passato, ma anche la fiducia che riscuotevano quando credevano, come Don Dilani o Mario Lodi, che una buona scuola potesse migliorare il mondo. Ora non resta che raggiungere i ragazzi là dove sono, senza lasciarsi ingannare dagli abiti sbracati, dai modi arroganti, dalla ostentata indifferenza per tutto e per tutti. Sono alla ricerca di se stessi, di una propria definizione in una società che ha rotto gli stampi della tradizione e non ha nulla da proporre. È una ricerca disperata se non viene riconosciuta e apprezzata, ma può diventare una risorsa se li trasformiamo da fruitori passivi di una cultura preconfezionata a protagonisti attivi di una cultura da costruire insieme, perché tutti ci riguarda. Avete ascoltato la lettura dell'editoriale di Silvia Vegetti Finzi, Quelle sconosciute ambizioni dei ragazzi che non studiano, dal Corriere della Sera del 3 marzo. Letture di Radio 24. I primi dati di un monitoraggio sull'efficienza dei nuovi Frecciarossa evidenziano che il 70% dei tanto celebrati treni ad alta velocità arriva in ritardo. Ma per Trenitalia tutto continua a funzionare alla perfezione e lo stesso succedeva con i vecchi Eurostar. Nel 2008, scrive Claudio Gatti nel suo libro Inchiesta su Trenitalia, ben 1.754 Eurostar sono arrivati in ritardo ma registrati come puntuali. In una chat organizzata il 10 settembre 2008 da Corriere.it, l'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, Mauro Moretti, non ha avuto alcuna esitazione ad affermare che già oggi i nostri Eurostar viaggiano con una puntualità equivalente a quella francese e a quella tedesca e che nei 15 minuti stanno il 94% dei treni in puntualità. Ripeto, come in Germania e come in Francia. Moretti bleffa. Paragona i dati della puntualità in Italia con quelli esteri, senza dire che da noi il calcolo è fatto in modo diverso. Non si usano gli stessi standard. In Francia e in Germania la puntualità è calcolata sempre a 5 minuti. In altre parole, i treni sono ritenuti puntuali se il loro arrivo avviene entro i 5 minuti dall'orario previsto. In Italia ciò vale soltanto per i treni regionali, cioè quelli che percorrono le distanze più brevi. Per gli Eurostar, gli Intercity e gli altri treni a lunga percorrenza si applica invece quello che si potrebbe definire il quarto d'ora accademico, che concede alle FS un margine di tempo extra tre volte superiore a quello di francesi e tedeschi. Possibile che l'ingegner Moretti non lo sappia? Sarebbe sorprendente perché in RFI, la società di cui è stato amministratore delegato fino al settembre 2006, il paragone con i concorrenti stranieri è sempre stato fatto. Un documento interno intitolato Puntualità treni passeggeri, obiettivo 95, fa notare che in Germania tutti i treni, urbani, regionali e a lunga percorrenza, sono misurati a 5 minuti. E non solo all'arrivo nelle stazioni finali, bensì anche nelle fermate intermedie. In Italia invece si calcola solo la puntualità a destinazione, il che significa che se un Milano-Napoli arriva a Firenze con 20 minuti di ritardo e a Roma con 25, ma poi nel tratto Roma-Napoli recupera 10 minuti, le FS lo considerano puntuale, alla faccia dei passeggeri scesi a Firenze e a Roma. Lo stesso documento sottolinea che in Francia sia i regionali, sia i treni a lunga percorrenza, sono misurati entro i 5 minuti e che, ancora meglio, fanno le ferrovie svizzere, le quali misurano i treni a lunga percorrenza a 5 e a 3 minuti all'arrivo in tutte le stazioni più importanti. Ho dunque contattato la SNCF francese e chiesto i dati sulla puntualità del 2008 per i TGV, i treni ad alta velocità transalpini. La risposta è stata 82,8% nei primi 5 minuti. La Deutsche Bahn mi ha detto che i suoi treni hanno registrato il 90% di puntualità entro i 5 minuti. Poi, per pura curiosità, ho pensato di chiedere anche agli svizzeri. È lì che si raggiunge il top. 95,8% di puntualità ai 5 e 89,7% ai 3 minuti. Cosa succede in Italia? Bella domanda. I dati relativi ai 5 minuti le FS non li rendono pubblici neppure sotto tortura. Non perché non li abbiano, solo perché non rivelano niente di cui essere orgogliosi. I dati ai 5 minuti per la lunga percorrenza li hanno e come, ma se li tengono ben stretti, mi rivela il dottor Due. Ovviamente non potevo non cercare di procurarmeli. E così ho fatto, ottenendo dati che RFI ha sempre tenuto nascosti a tutti. Ho scoperto che nel 2008 la media annuale della puntualità entro i 5 minuti degli Eurostar è stata un patetico 64%, cioè 31 punti in meno della Svizzera, 26 in meno della Germania e 18 della Francia, alla faccia della puntualità equivalente. Per avere un'idea, basti sapere che ben 18.258 Eurostar, sul totale dei 50.717 che hanno attraversato l'Italia nel 2008, sono arrivati oltre quella che nel resto dell'Europa viene considerata la soglia del ritardo. Le percentuali peggiori si sono verificate proprio nel periodo in cui i nostri treni erano più carichi di stranieri, cioè l'inizio e la fine dell'estate, con un imbarazzante 59% a giugno e un ancor peggiore 57% a settembre. Mi sono procurato poi le specifiche di un singolo mese del 2008, quello di luglio, da cui risultava che gli Eurostar, arrivati a destinazione con un ritardo compreso nella fascia 05, erano il 61% del totale. Nei dati di quel mese ho trovato treni con percentuali di puntualità ai 5 minuti da far rabbrividire. Il peggiore era stato l'ES9304 da Roma a Milano. Su 22 treni, solo il 18% era arrivato a destinazione nella fascia 05. Tra i 30 treni ES9325 da Rimini a Roma Termini, la percentuale era stata del 20%. L'ES9642 da Napoli a Venezia aveva registrato il 23% di puntualità a 5 minuti. L'ES35354 da Lecce a Roma Termini, il 24%, alla pari dell'ES9375 da Roma a Reggio Calabria. Sono dati che hanno dell'incredibile, visto che si sta parlando di treni con rete dedicata e con assoluta precedenza su tutti gli altri nei tratti condivisi e quindi più puntuali, dice il dottor Cinque, ex dirigente di RFI. La verità è che la percorrenza di un Eurostar Roma-Milano non è di 3 ore e 30 minuti, bensì di 3 ore e 44 minuti, perché il sistema FS è calibrato per avere 14 minuti e 59 secondi aggiuntivi, cioè il quarto d'ora accademico che non viene calcolato come ritardo. Ma nessuno fuori dalla FS lo sa, o lo sapeva finora. La mia insistenza sulle cifre potrebbe farmi apparire eccessivamente petulante. In realtà sono proprio questi dati che spiegano la discrasia tra la sensazione diffusa dei passeggeri che i treni siano quasi sempre in ritardo e l'asserzione di Trenitalia che li dà quasi sempre puntuali. Uno sguardo su come avvenga il calcolo della puntualità è questione che i normali viaggiatori finora hanno ignorato. E l'ignoranza molto spesso alimenta uno status quo, anche se maldestro. Un rapporto dell'audit di FS intitolato «Verifica della correttezza dei dati di puntualità» e datato 7 novembre 2006 rilevava una bassa affidabilità degli orari di arrivo dei treni in diverse grandi stazioni: Milano Centrale, Napoli Centrale, Roma Termini e Torino Porta Nuova. L'esame ha riguardato 519 treni, 338 del trasporto regionale, 181 a lunga percorrenza. La rilevazione è avvenuta nell'arco temporale settembre-ottobre 2006. Su un campione di 1019 treni in 12 grandi stazioni, era emerso che la percentuale di treni regionali arrivati nella fascia di puntualità 05, secondo RIACE, il sistema di rilevamento di RFI che fa testo sulla puntualità, era stata del 77%, contro il 65% dei dati di audit. Nella seconda rilevazione, su un campione di 338 treni in 4 grandi stazioni, la percentuale RIACE era risultata dell'80%, mentre quella dell'audit del 60%. Quei dati non lasciavano adito a dubbi. Sulla puntualità qualcuno ci marciava. L'audit di FS aveva visto giusto, anche se la metodologia usata per giungere a quella conclusione era stata tutt'altro che impeccabile, conferma il dottor Cinque. Volendo saperne di più, ho scoperto che in un paio di compartimenti regionali fu accertato che i minuti di ritardo, da 6 o 7, venivano spesso portati a 5. Successe per esempio a Napoli e a Torino. Ci sarebbe stato da fare una denuncia, ammette una mia fonte, ma ci si limitò a cambiare il personale che contraffaceva i dati. Nessuna denuncia. Se la cosa si fosse risaputa, ci sarebbero state implicazioni pesanti, perché dalla puntualità dipendono le carriere dei dirigenti, i bonus di fine anno e le penali alle regioni. Insomma, su quei dati si giocano importanti partite interne a RFI, con Trenitalia e con le regioni. Il 16 ottobre 2008 l'Authority sulla concorrenza ha comminato una sanzione amministrativa pecuniaria di 200.000 euro a Trenitalia S.p.A. a causa dell'ambigua politica di erogazione dei bonus per i ritardi. Dalla sentenza si apprende che la possibilità di ottenere il rilascio di bonus viene meno per il viaggiatore qualora, pur ricorrendo i ritardi nella stazione di arrivo, essi siano dovuti a cause di forza maggiore, cause meteo o naturali, lavori programmati lungo la linea resi noti alla clientela, scioperi, fatti di terzi con conseguenze sulla circolazione, occupazione dei binari da parte di soggetti estranei all'organizzazione ferroviaria, incendi o calamità naturali, ordine dell'autorità. Sono le cosiddette cause esterne, che esonerano Trenitalia dalle responsabilità del ritardo. Il problema, fa sempre notare l'Authority nella sua sentenza, è che accade di frequente che il ritardo del treno venga attribuito a più cause diverse, di modo che il ritardo non risulti attribuibile al professionista Trenitalia e di tale consistenza da permettere l'erogazione del bonus. In pratica, il confine tra causa esterna e non è labile. Se la canaletta di scolo dell'acqua è otturata e si crea un allagamento, è causa esterna? Oppure è colpa della scarsa manutenzione? Se c'è un incendio sulla linea perché prendono fuoco le sterpaglie lungo i binari, è causa esterna? O è colpa di chi non ha tolto le sterpaglie? Persino in caso di suicidio, la più evidente delle cause esterne, è possibile marciarci. È infatti chiaro che il treno coinvolto è vittima di una causa esterna, ma il treno che viene dopo? E quello che viene dopo ancora? La realtà è che nella giornata in cui si verifica il suicidio, si cerca di attribuire tutto alle cause esterne, osserva il dottor Due. A inserire le cause del ritardo è il gestore della rete, RFI, ma l'impresa ferroviaria, cioè Trenitalia, può accettare o contestare quella decisione. Però, poiché entrambi hanno penali da pagare sui ritardi, Trenitalia non ha alcun interesse a contestare una causa esterna, anche se inserita artificiosamente da RFI. Ma c'è un altro trucco per migliorare artificialmente la puntualità, altrettanto efficace e inconfessabile. Il termine tecnico è allungamento. Consiste nella dilatazione dei tempi di percorso previsto dall'orario dei treni. In pratica, se un treno che dovrebbe arrivare ogni giorno alle 13.40 arriva regolarmente alle 13.50, si modifica l'orario di arrivo direttamente alle 13.50. Gli allungamenti si fanno al momento del cambiamento stagionale degli orari. In teoria sono dovuti a motivi tecnici, ma in pratica possono servire anche a fare puntualità, perché si incorpora il ritardo nel tempo di percorrenza, rivela il dottor Due. La prova provata viene da un ennesimo documento interno. Si intitola Nota su cambi orari e puntualità ed è datato 12 febbraio 2006. A inviare la nota ai vertici di tutte le direzioni regionali fu Giancarlo Laguzzi, all'epoca e tuttora capo della direzione regionale, uomo di stretta osservanza morettiana. L'incipit è chiaro. Ogni cambio orario deve quindi costituire una discontinuità per migliorare gli indici. Di seguito suggerisco alcuni criteri per le piccole modifiche possibili per il cambio orario di marzo, orientate alla puntualità. Segue un elenco di interventi sulla fascia oraria 21-24. Per esempio, un semplice provvedimento è quello di inserire dopo la penultima stazione un allungamento di 3-5 minuti, ritardando quindi solo formalmente l'orario di arrivo alla stazione di destinazione. Ovviamente interverrete solo sui treni che oggi maturano ritardo e non su quelli a elevata puntualità. Si può analogamente intervenire anche su treni precedenti alle 21, ma solo se l'ultima stazione ha frequentazione scarsissima, ad esempio L'R2645 Milano-Arquata, allungando l'orario di 2 minuti tra Novi e Arquata. Gli interventi sulle due fasce di punta, 6-9 e 18-21, dovevano essere ancora più sistematici. Per i treni in fascia pendolare del mattino, inserite un allungamento di 1 o 2 minuti, solo se il treno non può rispettare la traccia e nel punto più utile del nodo. Non volendo lasciare spazio a errori, Laguzzi invitava poi tutti i direttori di compartimento regionale a valutare se non fosse meglio rimandare all'orario di giugno per spalmare l'effetto sui pendolari. La questione è molto grave, perché questo documento è sintomatico di un modus operandi. Qui, infatti, il messaggio del capo è tanto semplice quanto sconcertante. Non state a sprecare tempo ed energie nella soluzione dei problemi. C'è un escamotage? Optate per quello senza pensarci un secondo. Non è neppure un consiglio, è un ordine di scuderia. Il problema di fondo è che in paesi come la Germania, la Francia o la Svizzera, la puntualità è una realtà. In Italia è una convenzione, conclude il dottor Cinque. Se un treno di lunga percorrenza arriva con 15 minuti di ritardo, in Germania, Francia o Svizzera è considerato in ritardo. In Italia, invece, è ritenuto puntuale. A questo si aggiunge il trucco delle cause esterne, la puntualità calcolata solo a destinazione e l'allungamento degli orari. Che nella realtà i treni italiani accumulassero molti più ritardi di quanto annunciato dalle FS era evidente a quasi tutti i passeggeri. Un'evidenza che diventa abitudine, a cui è impossibile ribellarsi o chiedere rimedio, accettare o incassare. Come se anche il ritardo dei treni fosse un vezzo Italian style. Prima d'ora nessuno aveva però avuto accesso ai dati e ai documenti che dimostravano come stessero realmente i fatti. Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi dal libro di Claudio Gatti, Fuori orario, da testimonianze e documenti riservati, le prove del disastro FS. Chiare Lettere Editore, 244 pagine, 15 euro.